Elle ha solitudine. Dio fa abitare il solitario in una famiglia, Salmo 68,6. La solitudine è per un essere umano un'esperienza anormale e normale nello stesso tempo. E un'esperienza anormale perché essa non esiste in Dio, poiché tutto quello che è terreno riflette celeste. Essere o sentirsi soli è in antitesi con un principio divino, poiché Dio è trino ed in Lui non vi è. E non vi può essere solitudine. La Scrittura ci riferisce di un consiglio eterno di Dio, ed un consiglio per essere tale richiede una pluralità. Proprio per questo motivo Dio, dopo aver creato Adamo, notò la sua solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. Dio creò quindi la donna non solo perché per creare un uomo occorrevano due esseri, ma anche per eliminare lo stato di disagio dovuto alla solitudine da parte di Adamo. Il matrimonio quindi si inserisce in questo contesto come uno dei doni più grandi che Dio abbia fatto alla razza umana. È veramente grave ed errato disprezzare il matrimonio. Il cristiano che disprezza, vilipende, disistima il proprio e l'altrui matrimonio, offende Dio e la sua opera. Noi siamo colpevoli davanti a Dio quando per scherzo, e questo ne aumenta la gravità, facciamo affermazioni che feriscono il partner, quali «tornasi indietro non mi sposerei più», oppure «meglio soli che male accompagnati». La solitudine come principio è fuori dal volere di Dio. La solitudine però è anche un'esperienza normale. Dopo la disubbidienza di Adamo ed Eva, l'essere umano ha dovuto separarsi da Dio e quindi sperimentare la solitudine. La solitudine si è poi trasferita all'interno del matrimonio, perché Adamo ha dato immediatamente la colpa prima a Dio, poi ad Eva, la causa del suo misfatto. In questo modo dilagarono nell'ambito del matrimonio la divisione, e con la divisione la paura e la solitudine. La libertà nel matrimonio è anzitutto liberazione dalla propria paura di fronte all'altro e libertà di comunicazione. Entrata la divisione nel matrimonio, il passo è stato breve perché questa si trasferisse in seno alla famiglia. E così Caino uccise Abele, perciò Caino si allontanò da Dio provando un'estrema solitudine. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e sarò nascosto dalla tua faccia. E sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Genesi 4,14. Sperimentare quindi la solitudine è una maledizione che si trasforma in uno stato normale per una razza peccatrice, lontana da Dio. Come può essere uno stato normale essere tentati? Vi è però una solitudine che non è sgradevole, è anzi gradita, o amica, come scrive Marcella Fanelli nel suo libro Solitudine amica, solitudine nemica, edito da GBU. Riguardo al tema della solitudine, mi sembra di poter capire che ve ne sono di tre tipi. 1. Quella amata. 2. Quella forzata. Esaminiamole nei loro particolari. 1. La solitudine è una solitudine creatrice. La cerchiamo quando abbiamo bisogno di riposare, di riflettere su noi stessi, di rivedere il nostro rapporto con gli altri e con Dio. Chi non ha questi momenti difficilmente sa stare con gli altri. Chi non sa portare frutto quando si trova nelle valli solitarie della povertà dell'anima difficilmente potrà essere di aiuto al suo prossimo nei momenti opportuni. Nel regno di Dio le recite sono infruttuose. Una solitudine creatrice è quella che porta alla conversione. Il figlio prodigo, fatte le sue disastrose esperienze, restò solo. E in quella solitudine rientrò in se stesso e si rivolse verso Dio. Quando ero bambino uscivo dal recinto del collegio e, nella solitudine, pregavo Dio. Il diavolo, compresa la pericolosità di tale situazione, cerca in tutti i modi di tenere occupata la mente delle persone con cose vane, perché non pensino alla morte, all'aldilà. Un'altra solitudine creatrice è quella del credente che si ravvede e si riconsacra. Pensiamo a Giacobbe che, dopo aver messo in salvo tutto il suo bestiame, i servi, le mogli e i figli, dall'ira di suo fratello, rimase solo. In quella solitudine lottò con Dio e alla fine fu benedetto. Genesi 32,24. Giovanni, l'apostolo, solo nell'isola di Patmos, ricevette da Dio la rivelazione dei fatti relativi agli ultimi tempi. Pietro pianse amaramente dopo aver tradito Gesù, ma più tardi, solo con Gesù presso il lago di Tiberiade, riconsacrò la sua vita. La solitudine è nostra amica quando ci spinge a godere della comunione con Dio, così come godiamo della comunione con gli altri. Qualsiasi solitudine che non ci avvicina a Dio deve essere evitata, anche se ha la parvenza di essere lecita o biblica. 2. La solitudine causata. La solitudine causata è il risultato di un nostro comportamento sbagliato. La normale vita di un uomo, e specialmente di un cristiano, consiste nel vivere in armonia con gli altri. Però, per una serie di fattori, spesso rimane solo. Il primo motivo è che si costruiscono mura anziché ponti. A chi non va incontro al prossimo, prima o poi succederà di non essere cercato da nessuno. In secondo luogo, per vivere in armonia con gli altri bisogna saper perdonare. Come disse qualcuno, chi non sa perdonare distrugge il ponte sul quale dovrà passare. La peggiore forma di solitudine non sta nel non avere nessuno vicino, ma nel non poter riuscire a comunicare con gli altri. Essere soli tra una folla di gente è una realtà giornaliera per tante persone. Molti cristiani soffrono di solitudine perché se ne stanno con le mani in mano, vogliono essere serviti anziché servire. Secondo i parametri di Dio, è dando che si riceve, è amando che si è amati. Se nessuno ti cerca, interessati degli altri. Se nessuno ti telefona, telefona tu. Fai agli altri quello che vorresti che si facesse a te. L'interesse per gli altri toglie alla radice la depressione, l'insoddisfazione, la solitudine. Ho letto una intervista ad un handicappato di nome Sebastiano, Riforma, venerdì 1 ottobre 1993. Gli fu chiesto che cosa si aspettasse dal futuro. Ecco la risposta. Sono cresciuto aiutando gli altri. Sono contento di essere una persona onesta. La vita è bella e non bisogna fermarsi. Appena finisce la scuola, voglio lavorare a tempo pieno per aiutare i disabili, quelli più sfortunati di me. Inutile dire che Sebastiano non soffre la solitudine, né si è chiuso in uno stato di vittimismo o di autocommiserazione. Tutti coloro che hanno saputo trasformare il negativo in positivo sono una benedizione per tutto il genere umano. Johnny Erickson Tada ne è una prova. A seguito di un incidente divenne paraplegica in giovane età e, dopo anni di dure prove, si arrese alla volontà di Dio. Oggi è a capo di una affermata organizzazione mondiale che opera a favore dei disabili. Un altro fattore che causa la solitudine è lo smodato bisogno di affetto che abbiamo. È un paradosso, ma più si ha bisogno di affetto, più si crea attorno a noi il vuoto, allontaniamo le persone. Tutti i giorni per qualche ora vado a trovare mia madre che vive sola. A volte ho poco tempo, ma vado comunque a trovarla. Dopo 15 minuti faccio per andarmene e mia madre: brontola, non vieni mai a trovarmi e quando vieni stai qui poco tempo, piuttosto non venire. Con questo atteggiamento, anche il figlio meglio intenzionato è tentato di non tornare più in visita. Si ottiene pertanto il risultato contrario al voluto, creando un bisogno di affetto maggiore. E proprio vero che la paura crea ciò che teme. Lo stesso vuoto lo creano il marito o la moglie, che pretendono amore e servizi. Molti matrimoni andrebbero meglio se i coniugi fossero più altruisti e si preoccupassero anche del coniuge e non solo di se stessi. Tutte le problematiche matrimoniali hanno un solo comune. Denominatore comune, l'egoismo. Chi è capace di essere veramente sempre altruista? E pensare che molte persone non sposate o vedove si macerano poiché pensano che se fossero sposate non si sentirebbero sole. Questo è un grande inganno del diavolo. Ecco un giudizio di un consulente matrimoniale. Oggi le coppie moderne troppe volte parlano ma non condividono i loro pensieri. Sentono quello che l'altro dice ma non si ascoltano. Si toccano ma non si amano. Guardano ma non vedono. Pregano ma da soli. Parlano di persone, di fatti, ma non di Dio, del loro amore e dei loro sentimenti. Conoscono gli amici più del loro coniuge. lavorano duramente, ma non per migliorare la loro unione. Amano Dio, ma solo in modo personale e individuale. Stanno uno a fianco all'altro, ma non camminano assieme. Sono più che opportune le parole di Paul Tournier: si dovrebbero sposare solo coloro che sanno vivere da soli. Sì, si dovrebbero sposare solo coloro che non soffrono di solitudine, perché un coniuge non può risolvere tale problema. Fino ad oggi ho conosciuto sola una persona che è rimasta vedova e perso l'unico figlio militare, e più volte mi ha detto: io mi vergogno di chiedere a Dio qualcosa perché ho tutto. Essa non si sente sola perché realizza che Dio la ama. Vi è anche la solitudine causata dal vittimismo. E il caso di Elia, che fugge per paura di Izebel e va al monte Horeb. Dio gli chiede: cosa fai tu qui, Elia? Cioè, come mai non sei al posto di combattimento? Elia risponde: hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo. Elia aveva ricevuto una slogatura spirituale. Si sentiva solo, ma vi erano 7.000 uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Sentirsi soli non equivale ad esserlo. 3. La solitudine forzata. La solitudine forzata è quella che Dio ci impone. Essa è sempre positiva. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Sieda solitario e stia in silenzio quando Dio glielo impone. Lamentazioni 3:27-28. Questa solitudine si può concretizzare con la morte del proprio coniuge. Al riguardo ricordiamo Ezechiele. Dio gli profetizza la morte della moglie dicendogli di non far cordoglio e di non piangere. Ezechiele 24:15-18. Ma la solitudine peggiore non sta nel non avere nessuno vicino, ma nel non avere nessuno che ci aspetta. Se si rimane vedovi in giovane età si può ancora sperare di trovare un partner, ma ad una certa età una vedovanza solitaria è inevitabile. Se questa solitudine viene accettata, è creativa, appagante, altrimenti può portare il credente ad una seria depressione e alimentare segretamente nel suo cuore una ribellione a Dio. Vi può essere una solitudine forzata anche a causa della fedeltà a Dio. Paolo sperimentò per questo motivo la solitudine. Nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato. 2 Timoteo 4:16. Essere fedeli uomini di Dio porta a subire anche oggi la solitudine e l'incomprensione umana, ma non quella divina. Come disse qualcuno, spesso Dio deve continuamente allontanare da noi i nostri amici, gli affetti più cari, così che gli sia possibile prendere il loro posto affinché non proviamo la solitudine. Per esperienza posso confermare la validità di questa affermazione e che la consapevolezza spirituale della presenza di Dio è veramente appagante più di ogni altra cosa. Sentirsi soli come cristiani è disonorare la presenza di Gesù Cristo, negare che Egli sia più importante di ogni altra cosa e confessare di non avere il rapporto giornaliero di crescente intimità con Gesù, il Figlio di Dio. La solitudine di Gesù. Gesù fu l'uomo solitario per eccellenza. Il famoso brano profetico di Isaia 53 presenta di un uomo rigettato, disprezzato. Ecco in sintesi la sua vita. Nell'Evangelo di Giovanni sta scritto che egli è venuto a casa sua e i suoi non lo hanno conosciuto. Quando Gesù nacque, fu respinto dagli uomini e gli animali gli offrirono la loro propria dimora. Quando era ancora in fasce, i genitori di Gesù scapparono in Egitto. A 12 anni Gesù rimase nel Tempio e i suoi genitori lo rimproverarono per questo motivo. Gesù era solo nel deserto quando fu tentato. Gesù era solo fra la gente che lo circondava per interesse. Gesù era solo in famiglia perché i suoi pensavano che fosse pazzo. Gesù era solo fra i discepoli perché spesso essi non capivano quello che diceva e faceva. Gesù era solo nel giardino del Getsemani perché i suoi tre amici si erano addormentati. Gesù era solo davanti ai giudici, nessuno era per lui. Ma soprattutto, Gesù rimase solo sulla croce quando gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù fu solo per dare al solitario una famiglia. Egli morì per raccogliere in uno i figli di Dio. Il cristiano è inserito nella famiglia di Dio, ha fratelli e sorelle per l'eternità. Come combattere la solitudine? La solitudine si combatte radicalmente in un modo solo: avere sempre coscienza della presenza di Dio. Un cattolico andava spesso in chiesa, si sedeva su di una sedia e diceva: Signore, sono qui. Quando divenne vecchio, si ammalò ed era trascurato dai suoi parenti. Gli amici lo andarono a trovare e cercarono di consolarlo, vedendo come fosse solo. Egli rispose che il Signore gli era vicino ed era seduto sulla sedia. Davvero, risposero gli amici divertiti, che cosa ti dice? Non molto, rispose, solo, sono qui. Camminare alla presenza di Dio non è tanto una dottrina da sostenere, ma una realtà da godere ogni momento di ogni giorno. Non tutti fanno questa esperienza, ma essere coscienti che Gesù Cristo ci è vicino, che cammina con noi, che ci parla, che ci protegge, scaccia quella solitudine come ciclo di pensiero inutile che gira attorno ad un centro di paura. Ecco un altro esempio di come Dio opera. Un giorno in Svizzera una signora anziana andò a bussare alla porta di una famiglia e chiese se potevano darle una stanza e in cambio lei avrebbe versato loro la sua pensione. La famiglia rispose che per loro era un rischio ospitarla, perché essendo anziana, se si fosse ammalata avrebbe aggravato la situazione familiare. Questo non avverrà, disse la donna anziana, perché ho chiesto al Signore di risparmiare la famiglia che mi avrebbe ospitato di tale peso ed egli mi ha risposto di sì. Certo, dissero i familiari, ma non abbiamo il coraggio di provare. Ella bussò alla porta di un'altra famiglia e questa accettò la sua proposta. Ella stette con loro molto tempo, per poi andare col Signore all'improvviso mentre dormiva. Il Signore è colui che in un modo o in un altro sa risolvere il nostro problema della solitudine. Ci crediamo? È questione di fede. L'unica solitudine che il cristiano dovrebbe provare è quella amica dove egli si ricrea e quella impostagli da Dio, creatrice se accettata. Ogni altra solitudine deve essere rigettata perché pericolosa e non costruttiva. Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione. Proverbi 18, 1. Sta scritto: Dio fa abitare il solitario in una famiglia, ma continua, libera i prigionieri e dà loro prosperità, ma i ribelli dimorano in terra riarsa. La promessa di Dio non si limita a procurare una compagnia a chi è solo, ma lo libera anche da catene di peccati e di pesi, da angosce e paure, da rimpianti e nostalgie, da una vita infruttuosa, dando mete, obiettivi, sincero interesse per gli altri, una vita piena di buoni frutti. Dio rende il solitario atto a servirlo, a onorarlo, a glorificarlo. Comincia a ringraziare Dio per questa verità e scoprirai con sorpresa che lo spettro della solitudine si scioglierà come neve al sole. Maggio 1992. Ellero.